Thank you. aspetta, aspetta, tu non sai chi sono ancora guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sai, no, non sai, no, non sai chi sono ancora guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sai, no, non sai, no, non sai chi sono ancora, chi sono ancora, chi sono ancora, chi sono ancora. Ah, quella, bella, in casa, una donna come lei, come lei, non ti ancora, non ti ancora. Questo velo è troppo basso, e le piume un po' girate, così, guidate, una sola sopra fate. Bella, quanto io bramerei, temo a lui, chi non sembra. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di Per Taddeo, Caimacane, ti presento, Ser Taddeo, Caimacane. Ma ciò credi, quanta stima, dice pace, Mustafa, da ciò prendi quanta stima. Faccia di te, faccia musa fa. Vai, Caimacane, t'accosta il tuo muso fatto apposta. Caimacane, a me t'accosta il tuo muso è fatto apposta. Son salito ad atto noi, hai capito questo come, questo come, pensa adesso come sta, hai capito questo come, pensa adesso come sta, questo cuore, pensa adesso come sta, questo cuore, pensa adesso come sta. Thank you. viva! Ci siamo! Oh. E chi? Creta! Creta! E chi? E chi? Quel soldo! Maledetto quel balordo! Non intende ancor vista! Che star non dite che scoppia! Non mi muovo via di qua! Maledetto quel balordo! Non intende ancor vista! E c'è l'opera di che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, sofrenar con nelle vene un poco più non mi sofrenar no no mi sofrenar no no mi sofrenar sento freddo Perdendo si va, sin consiglio, con voi. Bop!

Papà, taci!

天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。